Cos'è sto fischio? È l'interfono di Radio 24, sì, cioè ti rendi conto? Siamo a Radio 24, nel palazzo di Renzo Piano. Sai tutto che... una figata e sì, quando ti parlano nell'interfono, tu, conduttore radiofonico, nelle cuffie scadenti, già scadenti di loro, senti questo. Un po' rotte anche, che perdono i pezzettini, guarda qui, tutto il Ma flaffo. Lo sentiranno anche gli ascoltatori? Io ho paura di sì. E allora meglio, così si sentono un po' dai nostri. Benvenuti a Radio 24. Scusa capo, la settimana scorsa la Fornero si è lamentata dei giornalisti e ha detto che le dava fastidio il fatto che se ti scappa una frase durante qualche... un'altra cosa ancora. Se ti scappa una frase qualunque durante un tuo intervento, il giorno dopo quella frase detta così diventa un titolo. Vabbè, finché ti scappa una frase... E comunque se sei ministro funziona così. Ecco, il giorno dopo quella frase lì che ha detto, proprio la frase sulla frase che diventa titolo, è diventata un titolo. C'è qualcosa di bartezzaghiano in tutto ciò. Di? Bartezzaghiano. E tu capa che hai una mente matematica e scientifica, mi risolvi questo enigma della frase che diventa titolo dopo ma che... dai, ma drago, ma quale enigma? Non c'è nessun enigma. La Fornero ha semplicemente fatto una previsione autoavverante. Una previsione che si avvera solo per il fatto di essere stata formulata. No? Se, se Bersani dicesse io partecipo alle primarie ma tanto perdo. Io partecipo alle primarie ma tanto perdo. Allora così perderà perché nessuno avrebbe fiducia in lui e quindi la sua previsione si avvererebbe. Capito. La Fornero si è rinchiusa nello stato... La Fornero si è rinchiusa nello stesso cul-de-sac. Cul-de-sac. È bon ti parla, eh? Sapeva benissimo che la sua lamentela sulla fame di notizie dei giornalisti avrebbe scatenato appunto la fame dei giornalisti. Ah, quindi lei l'ha fatto apposta, lei lo sapeva che sarebbe successo. Non lo so, ma l'ha fatto apposta oppure è inesperta. Comunque, in ogni caso ha sbagliato completamente tattica. Verrebbe da chiederle, cara ministra Fornero, o ministro Fornera. No, come Fornera, Fornero. Quindi, ministro, ministra Fornera, non lo so, va bene. Comunque, se non vuol finire sui giornali, perché fa di tutto per finire sui giornali? Infatti ci sono ministri altrettanto importanti che non finiscono mai sui giornali per le cose che dicono. Quindi... Bisogna vedere se succede perché sono discreti o se invece succede perché non dicono niente di decisivo, che potrebbe essere... Forse la seconda ipotesi è peggio della Fornero che parla troppo, quindi meglio parlare, non so no? Non lo so. Vabbè, comunque la Fornero si guadagna il plauso dell'asilo tutto perché applauso. È una donna che ha più volte dimostrato di non essere proprio adulta al 100%, ha cominciato frignando come una bambina davanti ai deputati. Frignando. Dai, quando ha annunciato lacrime e sangue per tutti, ha pianto anche lei. Giusto. Poi ha fatto la spesa con la scorta, solite polemiche sulle auto blu, eccetera. Poi ha detto che i giovani italiani sono ciusi, cisi, non mi ricordo più. Insomma, se ci fosse stato il bambino Alberto al posto suo, non sarebbe cambiato granché. Ma sei sicuro? E ora, bambini, ricreazione! 22 46 31 14 19 2 e quelle invece niente e niente ancora. Io sto a grattare e poi gratto e non vico niente, ma dopo mi viene l'orticaria, no? Perché è una cosa psicosomatica e comincio a grattarmi sul corpo e quindi devo comprare un altro grattino perché... Se gratto il grattino non mi gratto il corpo. Alberto, ciao. Oi, ciao Ioris. Ciao, che stai facendo? Qui, ho fatto il grattino ma non ho vinto niente. E gratta e vinci. Sì, e vinci e non gratta e basta, perché qui non vinco mai niente. Pure capito? A te ti piace, pure a me mi piace un sacco fare gratta e vinci. Poi c'è tutto un trucco dietro per guadagnare i soldi. C'è il trucco, è una cosa che tu gratti, no? Viene via una pellicina e sotto ci sono dei numeri. Se questi numeri corrispondono a degli altri numeri, che si chiamano vincenti, ho detto tutto? Sì. Allora, se c'è... Vinci. 25 euro, 10 euro, 100 euro, 100.000 milioni di euro. Hai vinto qualche volta? No, io non ho vinto mai. Mai? No, ma perché c'è un trucco. Quello mio cugino c'ha un bar e fa... Vince sempre. Mi dice, dammi 2 euro ti faccio vincere 10 euro. Dammi 2 euro ti faccio vincere 20 euro. E io dico, ma come fai? Ma lui mi ha detto c'è un trucco, tu non ti preoccupare, dammi i soldi. E ma che trucco è? Come funziona? Tu lo sai? Ma ha spiegato un po', in poche parole, mi devo comprare tutto il pacco per vincere. Cioè, se mi compro tutto il pacco, la risma, tutta la risma mi devo comprare. E per forza, no, mi compro tutte le partite e vinco la scheda. Cioè, cosa vuol dire? Mi compro tutti i biglietti della lotteria, vinco la lotteria. mi spendo un miliardo di biglietti e poi per forza vinco. No, ma la cosa funziona così, che tu compri tutta la risma per un totale di 300 euro. Ma cos'è sta risma? La risma sono il pacco che contiene tutti i gratta e vinci. I gratta e vinci d'Italia? Di tutte le taglie più che altro, non d'Italia, di tutte le taglie. 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro. Sempre 300 euro il massimo che puoi comprare. Cioè la risma è composta da 300 euro. Ho capito, aspetta, la risma da 300 euro. Quanti grattini ci sono? Se sono da 1 euro sono 300, se sono da 2 euro sono 150. E c'hai ragione anche tu. Se sono da 5... È matematica questa qua. Per quello non mi stanno i soldi, non ti preoccupare, mio cugino c'è al bar. Perché? Perché dici che ti tornano indietro. Ma cioè, tu indietro cos'è? Una fattura? La roba ti torna indietro, la maledizione della prima luna, che cos'è? No, se tu ti compri tutto il pacco, lo Stato di legge ti deve dare indietro la metà, quasi, il 45%. Come te lo dai indietro? Cioè, cos'è un affare, un do to death? Cioè, io do a lui e lui poi mi ridà indietro? Sì, funziona così. Quindi tu spendi 300, ma quasi 150 te li ritornano indietro. Ma come? Mi ritorno indietro, mi fanno un bonifico, cioè... No, ti torno... brevi mano, cioè... Sì, cioè tu vinci, come ti arriva? Cioè, te li danno nei gratta e vinci. E tu gratti, è sicuro che 150 euro te li porti via. Ma che ci sono le vincite assicurate. Sì. Ho capito, ma il 45%. Ma io pago il 100%, no? E il 55% chi lo paga? Ho capito, ma tu nel momento in cui giochi lo sai che puoi perdere. Quindi... Ho capito, lo so, allora dov'è il trucco? Non ho capito, allora spendo 300 euro, che in realtà lo Stato me ne ha dato 150, e però gli altri 150 li spendo io, no? E poi io non vinco niente. Però puoi sempre vincere, vabbè. Vabbè, e se non vinco? E se non vinco hai speso la metà. E ho speso la metà, dipende la metà di che cosa? La metà di 300 euro sono 150 euro. È meglio di 300. Ho capito, ma io c'ho 150 euro, chi me li dà? Nessuno te li dà, in poche parole. C'è il barista che conosce il tabaccaio, che conosce tutto il giro dei gratta e vinci. Se lui sa che là dentro deve uscire il 50%, quando stanno finendo i biglietti, se ha visto che i biglietti sono finiti e non è uscito il 50%, se li compra lui e quindi con 10 euro si porta via 90, 100 euro che sono i tuoi e i miei. Ma chi è sto fantomatico barista e tabaccaio? E poi i miei e i tuoi? Io non c'ho neanche 2 euro per comprarmi il biglietto del tram? Ma non vedi che poi io... E qui alla fine? Niente. E niente. E qui? Appena c'è quel bonus di riserva? E niente. E la prossima volta sarai più fortunato. Mancano 39 giorni alla fine del mondo. K39 giorni alla fine del mondo. 39. Ogni volta che si salta di una decina mi sale un po' l'ansia, anche se non credo affatto alla profezia Maya, però un po'. Ma 39 è un'eternità. Comunque dai, io ribadisco che siamo rimasti soli a star dietro alla profezia Maya. Ormai è una cosa completamente dimenticata. Appunto, da tutti. Appunto. E poi quando sarà il momento tutti già la fine del mondo in Maya. E quindi imbastiscono un programma con Carlo Conti per la fine del mondo. I migliori. Sì, vero, i nostri migliori le fine del mondo. Sì, ma tu ci credi davvero comunque a questa cosa? Cos'è sto suono? Insomma, non mi costa niente vivere fino al 21 dicembre come se dovesse finire il mondo, no? Un po' Voltaire. Se poi dovesse continuare, meglio ancora. Ma tu non stai vivendo come se il 21 dicembre finisse il mondo. No, stai vivendo esattamente come Voltaire, come sempre. Come Voltaire, come sempre. Qui all'asilo, sì, Drago, tu non sai niente di quello che faccio fuori di qui. Magari fuori di qui faccio scaramanzia. Per fortuna, no? Anche se temo che l'ipotesi Tito Divano TV sia quella più plausibile. No, tu di non tutte. Ti preoccupare. Cioè, perché. Ecco, cioè, io non mi preoccupo per te, ma per il cane. Sì, cos'ha adesso? Sente, io lo so cos'ha. Sente appunto l'arrivo della profezia Maya. Ma Tito? Certo, Tito. Lo sai che i cani sentono tutto prima, no? Sì, ma ho capito, ma 39 giorni prima mi sembra esagerato. Ma che 39? Qui cioè, sono 6 mesi. A me sembra nervoso così. Per i cazzi suoi e basta, quindi altro che divano. Non è vero, perché se lo tengo sul divano potrebbe essere che a un certo punto gli salta la scimmia e mi azzanna la gola. E quindi? E quindi, non lo so, cerco di usarlo come sgabello basso. Cioè? Cioè ci appoggi i piedi mentre guardo la TV sul divano. Perché lui sta buono. Perché così. Deve essere divano cane, ma non è detto come dove, capito? Quindi, ma lui non ti fa gheure. Perché no? Dire. Perché lo schiaccio col peso, no? Col peso lo schiaccio e io lo schiaccio col peso e lui non muove un pelo.